In effetti è un rush finale della nostra programmazione annuale, ogni mese più o meno presentiamo dei libri. Venerdì abbiamo questo incontro per discutere La rivoluzione del nostro tempo, che è un bellissimo libro documento di Paolo Sofi sul tema, diciamo, delle conseguenze del liberismo e della crisi che questo ha determinato, diciamo, negli assetti dell'Occidente, in particolare in modo nefando per le sinistre. E quindi è un excursus della situazione attuale, e c'è anche la ricerca di un'alternativa. Ne parliamo con il professor Gianfranco Pasquino, con Francesco Cerrato, che insegna filosofia all'Università di Bologna, e con Cristina Quintavalla, anch'essa docente di filosofia a Parma. E alla fine di questo incontro, venerdì, che comincia alle 17:30, avremo la nostra consueta cena di autofinanziamento a prezzo popolare e molto gustosa. Si svolge al centro Giorgio Costa, in Piazza Gardino. Sì, sia questo e anche il secondo, che è la settimana dopo, che è un altro dibattito di profilo molto elevato. Noi stiamo molto attenti anche all'attività di questi ricercatori giovani marxisti, come nel caso di Luca Mozzachiodi, che è un nostro socio, ci ha proposto questo libro del professor Marco Gatto, anche lui molto giovane. È un libro che affronta il tema della critica letteraria e del pensiero critico, molto interessante, perché, diciamo, è rivolto proprio all'approfondimento del tema della crisi del pensiero, e naturalmente anche questo è un dibattito che vedrà, insomma, la partecipazione, spero, di giovani interessati a indagare il presente. Si tiene alle 17:30, sempre al centro Giorgio Costa. Mi fa piacere sottolineare che è un dibattito che non facilmente puoi trovare, diciamo, nelle librerie o negli incontri consueti, perché è di approfondimento molto serio. Il libro si chiama Resistenze dialettiche. C'è un terzo libro che in questi giorni suona come drammaticamente di attualità, non che non lo fosse, ma come dire, ha fatto breccia anche nel dibattito politico, si intitola Mala Terra. Questo è veramente un libro prezioso, intanto scritto da una giornalista di chiara fama, una specialista dei temi ambientali, Marina Forti, già al Manifesto, poi oggi collabora con tante riviste e quotidiani. Come hanno avvelenato l'Italia è un excursus di alcuni dei casi più eclatanti e gravi, diciamo, delle conseguenze dei processi di deindustrializzazione del nostro paese, di come interi territori siano stati contaminati per incuria, per malversazione, per la scarsa capacità delle nostre istituzioni di intervenire tempestivamente per evitare che ciò accada. Veramente un libro molto, molto bello e interessante. Gli scarti delle attività industriali sono andate a finire dove noi abitiamo, e producendo un inquinamento e conseguenze anche dal punto di vista sanitario, come ben sappiamo, molto dannose. Questo riguarda tutta l'Italia, dal nord al sud. Ne parlano con Marina Forti, Silvia Zambone, che è una ambientalista ecologista anche molto conosciuta, e Vittorio Bardi, anche lui un attivista ecologista impegnato molto nel movimento antinuclearista e per un ambiente diverso, per una società diversa, quindi coordinati da Silvia Lolli, che è una nostra cara attivista del circolo. Quindi è un periodo molto impegnativo, insomma, in 3 settimane facciamo 3 eventi che sono per noi estremamente, come dire, impegnativi. Quest'ultimo incontro si svolgerà alla libreria Ubic in via Ernerio alle 18, perché cambia la location, quindi lo sottolineiamo. Sì, in questo caso lo facciamo in collaborazione con la libreria Ubic, con cui normalmente cooperiamo abbastanza di frequente, con cui abbiamo un ottimo rapporto, è una bellissima sede, e quindi anche lì poi concluderemo con un bel brindisi augurale di fine anno, visto che è l'ultima presentazione di questo ciclo, sempre in direzione ostinata e contraria, qual è lo stile, la cifra della nostra attività. Per chi volesse ritrovare questi appuntamenti online, dove può andare? Può andare sulla pagina del sito del Manifesto Bologna, sito online www.manifestobologna.it, oppure sulla pagina Facebook Il Manifesto in Rete. Lì troverete gli eventi mano a mano che si sviluppano e tutte le informazioni, anche i numeri per prenotare o gli indirizzi nel caso vogliate restare a cena.